Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Vorrei suonare il rock e l'elettronica, portare un orecchino d'oro. Se non avessi dentro quella musica che ancora oggi mi innamora. Ragazzo con la testa tra le nuvole. A proposito di testa tra le nuvole, chi non ha testa ha gambe. Così la saggezza popolare apostrofa gli sbadati costretti a ritornare sui propri passi per rimediare alle defaillance della memoria. Colpa della testa tra le nuvole, anche in questo caso un modo di dire che racconta in realtà una serie di sintomi a volte sfumati e per questo difficili da descrivere con precisione. Ma tant'è che anche in questo caso basta la parola. In studio con me è tornato a trovarci il nostro dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno. Buongiorno. Sarà capitato anche a lei? Eh sì, a chi è che non capita ogni tanto di dire dove ho parcheggiato l'automobile, poi ripetere quello che stai dicendo, mi sono distratto un attimo, non ricordare dove si sono messe le chiavi. Capita a tutti e non rappresenta motivo di preoccupazione, tranne quando capita magari un po' troppo spesso. E a volte per testa tra le nuvole intendiamo anche quella testa un po', quella sensazione un po' di ovattamento, di pesantezza, di testa balorda, come dicono tante volte i vecchi. 800 24 00 24, cioè come dico io, no. 349 238 6666. Come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi è naturalmente, dottora Voledo, molto semplice, testa gambe. Ho ascoltato tutto con attenzione il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Se le dico testa leggera, lei cosa mi risponde? Ma io le rispondo testa pesante, perché in realtà la testa leggera a volte si confonde con la testa pesante. Proviamo a dirla tutta. Sì. Ci accorgiamo di avere la testa e questo vuol dire che qualcosa non va. Molte volte se non dormiamo, se abbiamo una preoccupazione, se abbiamo alcune particolari forme di mal di testa, avvertiamo la testa ed è difficile dire se sia troppo leggera perché sgombra o troppo pesante perché ingombra. In ogni caso avvertiamo un qualcosa che non va, meglio avvertiamo l'esistenza della testa. Questa per un neurologo ha tutta una spiegazione scientifica che annoierebbe gli ascoltatori, ma è un'esperienza così diffusa che l'OMS stabilisce che sensazioni di quel tipo possono riguardare, udite udite, 1.400.000 persone nel mondo, e non sono numeri a caso. 1.400.000 di persone? Milioni, 1.400.000.000 esattamente. Non riuscivo a leggerla tutta. 800 24 00 24, a proposito di numeri, raccontateci anche quali sono i segnali che vi fanno dire o la testa leggera o la testa pesante. E noi legheremo la testa anche alle gambe, professor Barbanti. Ah certo, perché le gambe sono una delle prime cose che il neurologo guarda, e poi nell'andatura in particolare. E poi, se è permesso il termine, le gambe non sono le nostre zampe, è tutt'altro, c'è la classe nell'incedere e ci sono a volte piccoli disturbi che nelle gambe si manifestano ma nella testa nascono, non sono malattie, sono smanie, sensazioni così sgradevoli. Che però ci rendono la vita un pochino più difficile. Quindi occhio alla testa, ma occhio anche alle gambe. Il nostro modo di incedere racconta tante cose, anche il modo in cui noi stiamo fermi in piedi dalle gambe che fanno Giacomo in avanti. E ricordiamoci che siamo tutti collegati. La nostra testa a volte è vuota, leggera o pesante che sia, avvertiamo una dolenzia, la sensazione, la difficoltà a concentrarsi, e anche quella pesantezza che si manifesta, dottora Voledo, a livello oculare. Sentiamo gli occhi in qualche modo rigidi, duri. Perché? Ma ci possono essere tantissime spiegazioni. Molto spesso in quella sede si manifestano anche tante tensioni, dello stress, alcune proiezioni del mal di testa si localizzano proprio in quella zona. In questo caso si può optare per una scelta di rimedi naturali, come spesso ci capita di parlare. E ce n'è uno che mi viene in mente prima di tutti, che è il magnesio, che è un minerale meraviglioso sia per la testa che per le gambe. Se vedi, poi vogliamo, così prendiamo due piccioni, esatto, con una fava. Il magnesio è il minerale fondamentale per il sistema nervoso, quindi per le somatizzazioni, per l'ansia, per le tensioni, per la scarsa concentrazione, la poca attenzione. Quindi un minerale che va bene in ogni occasione, col magnesio non si sbaglia quasi mai. Ed è un minerale che appunto, quindi, che consigliamo anche ai ragazzi che stanno preparandosi, iniziano a vedere gli esami avvicinati. A breve ci sono gli esami scolastici, quindi le commissioni, la paura del foglio bianco, le notti insonni. Il magnesio è molto interessante perché regolarizza la sfera nervosa e permette di arrivare in maniera più rilassata, ma anche più attenta, quindi più concentrata ad appuntamenti importanti come questi. Ci sono alimenti che sono ricchi di magnesio? Ci sono alimenti che sono ricchi di magnesio, i cereali integrali, la frutta. Importante però in alcune fasi fare una ricarica di magnesio, quindi pensare anche a un'integrazione nutrizionale con integratori che vengono venduti in farmacia e in erboristeria, in capsule in genere, di cui si assumono 2-4 capsule al giorno, ecco, non per un utilizzo sporadico, però la sera prima degli esami. Sì, perché non basta. O sonno, questa sera non riesco a dormire, vorrei prendere magnesio. Magari si può fare un mese di trattamento e anche oltre. Professor Barbanti, parliamo degli studenti, ma parliamo anche di tutte le persone che, lavorando e quando sono sotto pressione, la testa si affolla di pensieri, di preoccupazioni, di dati, di cose da ricordare. Siamo impegnati proprio mentalmente a svolgere tanti compiti e arriviamo a casa con il classico cerchio alla testa. È vero, se mi posso riagganciare un attimo a quello che diceva il dottor Avoledo, che è interessantissimo. Il magnesio è il vigile urbano del nostro cervello. Noi abbiamo una sostanza nel cervello che è l'acido glutamico, che vorrebbe sempre far festa, sempre attivare i nostri neuroni. Questo mi piace, mi piace. Il magnesio fa da tappo e quando trova l'acido glutamico il posto occupato è un pochino come quando i posti migliori al cinema sono già stati prenotati, quindi lunga vita al magnesio. E come riconoscere il mal di testa da stress? Insomma, il mal di testa da stress lo riconosci perché intanto raramente ti viene voglia di prendere un analgesico, e anche perché tua moglie, quando te lo dice, o tuo marito quando te lo dice, utilizza tutta una serie di come se. Sai, cara, è come se avessi. Ebbene, è difficile da esprimere perché si somma la sensazione di testa piena o di testa vuota alla sensazione di come di mal di terra, a volte di pesantezza sugli occhi, di sentirsi instabile. E insomma, il nostro computer che ha esaurito la memoria del disco rigido, e bisognerebbe pensare ogni tanto a limitare l'ingresso di dati e altre volte invece a resettare, e per questo possono essere utili dei rimedi semplici come quelli che sono stati elencati, rimedi di stile di vita che sono più difficili perché mettono in discussione il nostro stesso modo di organizzare l'esistenza, e a volte rimedi più strettamente farmacologici. Dottor Avoledo. Sì, molto interessante quello che diceva il professor Barbanti. Insomma, vi piacete voi due. Senz'altro sì, professore, sempre un piacere ascoltarlo. A parte il mal di testa, mi veniva in mente una battuta con Cedi, ma di quello che questa sera no, caro, perché ho mal di testa. Non valgono questi rimedi. Ma ecco, sveleremo anche, forse è un luogo comune, anzi una bugia. Ma... Però c'è un rimedio molto conosciuto in fitoterapia e in erboristeria, che gode anche di alcune conferme scientifiche molto interessanti per il mal di testa. È il partenio, che è una pianta che appartiene alla famiglia delle margherite, che adesso sono impreziosiscono i prati. Il partenio è una pianta ormai ben studiata, si è visto che funziona benissimo nel mal di testa, anche nelle emicranie, ma anche nella cefalea da stress, in uso preventivo però, quindi chi sa di soffrire periodicamente di mal di testa, un'assunzione di un paio di mesi circa di partenio, grazie ai principi attivi che contiene, in particolare il partenolide, è in grado di ridurre la severità e l'intensità delle crisi di mal di testa. Quindi giocare d'anticipo, professor Barbanti, la terapia preventiva. direi che il dottor Avoledo sa troppo, è verissimo, è anche raccomandato dalle linee guida internazionali, il tenacetum partenium, il partenio, il problema è che viene usato poco in Italia, nel nord Europa dove la medicina, brutto dirlo, diciamo non convenzionale o alternativa o comunque naturale, ha più successo e viene usato moltissimo, e anche negli Stati Uniti, è verissimo, ha un effetto preventivo riconosciuto anche su una malattia che non è il cerchio alla testa, che è molto più disabilitante come l'emicrania, quindi ben venga anche il partenio, quindi, sdoganato anche lui. Sdoganato anche il partenio, vogliamo dare un'indicazione precisa, una sorta di posologia? Sono tante le persone che hanno mal di testa ricorrenti, professor Barbanti, possiamo descriverle così. Allora, questo il partenio ha, ed è confermato dalla scienza, come ci dicono i nostri esperti, questa proprietà di o allontanare le crisi o forse renderle meno dolorose. Sì, noi per questo raccomandiamo, sono diverse le formulazioni, che sono quindi diverse, non sempre equivalenti i dosaggi. Una cosa molto importante, come diceva il dottor Avoledo prima, è la lunghezza della terapia. Non occorre farla per qualche giorno, noi raccomandiamo in genere almeno 3 o 4 mesi. E poi in alcuni casi, sempre in questo caso indosso io un abito di medico naturopata, ma insomma in realtà non lo sono, nelle forme in cui il mal di testa sia prevalentemente mestruale, quindi legato alle fasi ormonali, le associazioni anche con l'agnocasto, che è un prodotto naturale, dimostrano dei buoni risultati anche per la scienza, lasciatemi dire ufficiale, anche se di ufficiale poi insomma c'è l'evidenza e non un palco scientifico piuttosto che un altro. 800 24 00 24, testa e gambe, l'hashtag di oggi, potete come sempre seguirci su Facebook, i messaggi al 349 238 6666, ma lo ha accennato il dottor Avoledo, il mal di testa potrebbe essere anche in qualche modo scacciato da un rimedio molto molto piacevole. Il sesso potrebbe essere il rimedio del futuro contro l'emicrania e la cefalea a grappolo. Lo suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Cefalalgia, a firma di un gruppo di ricercatori dell'Università di Münster in Germania, che hanno chiesto di compilare un questionario specifico a pazienti affetti rispettivamente da emicrania e da cefalea a grappolo. L'analisi dei dati raccolti ha svelato che il 60% dei pazienti che hanno avuto occasione di fare sesso durante un attacco di emicrania hanno visto ridursi i sintomi di questa forma di mal di testa. Nel caso della cefalea a grappolo, la percentuale di chi ha provato sollievo con l'attività sessuale è invece del 37%. Verrebbe dire provare per credere. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Buongiorno, dottor Rossi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. L'abbiamo ed è stata utilizzata da parecchio per scusa e invece adesso scopriamo che il mal di testa fa bene, il sesso fa bene all'amore. Eh sì, fa bene perché questa ricerca ci dà un'indicazione molto importante e tra l'altro pensate che una volta l'idea del caro o mal di testa era appannaggio, si pensava solamente delle donne, mentre ultimamente sono di più gli uomini a lamentare il mal di testa per evitare di fare sesso, comunque. Ci avete raggiunto, noi adesso troveremo altre scuse perché siamo più creative. Però quello che è interessante da questo studio è che quello che si sospetta è che siano le endorfine prodotte dal rapporto sessuale ad avere un effetto benefico sulla cefalea, sulla cefalea a grappolo, ed è interessante notare che c'è un altro studio, questa volta però italiano, che è stato pubblicato da un centro della provincia di Isernia, che addirittura parla non solo di cefalea a grappolo, ma parla delle cefalee muscolotensive e sostiene che l'attività sessuale faccia bene anche in questi casi, in questi tipi di cefalee, perché fa produrre la serotonina e la dopamina, che quindi hanno un effetto benefico sulla cefalea muscolotensiva. Quindi, al contrario però, sì, è interessante notare che ci sono dei casi di cefalea, quelle prevalentemente legate all'aumento della pressione, che invece si accentuano in caso di rapporto sessuale. Quindi bisogna cercare di non avere mal di testa e di avere quello giusto nel caso, quello che con l'attività sessuale migliora. Esatto, in questo caso sembrano proprio l'emicrania e la cefalea a grappolo, mentre per quelle tipi di cefalea cosiddette muscolo-tensive anche, invece per i tipi di cefalea legati di più alla pressione sarebbe proprio il caso di evitare i rapporti sessuali, o meglio, due accorgimenti. Bravo! Ecco, allora, beh, lei è sessuologo. Sì, importantissimo, stare attenti a quello che si mangia prima del rapporto. Quindi evitare i formaggi, evitare la cioccolata ed evitare il vino, e ovviamente per le persone che hanno problemi di pressione, quindi evitare anche tutti i farmaci che aiutano ad avere l'erezione. Quindi è meglio stomaco vuoto quasi. Eh sì, se devo proprio. In effetti è così, in generale il sesso va meglio a stomaco vuoto, perché comunque è un'attività anaerobica, per cui essere troppo appesantiti da una cena, per quanto piacevole ma molto pesante, non va bene per il sesso. Un ascoltatore mi scrive: ci vorrebbero dei centri terapeutici contro il mal di testa con quella terapia. Dottor Rossi, la ringrazio per essere stato con noi, abbiamo dato molte indicazioni che a testa ascolti. Buona giornata. Grazie, arrivederci, a presto. Stefano, buongiorno da Bari, e poi Giovanni dalla provincia di Torino. Stefano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Stefano? Sì, buongiorno. Buongiorno, allora, Stefano. La mia testimonianza è questa. Io volevo segnalare, chiedere eventualmente ai suoi ospiti, innanzitutto sì, buongiorno a tutti, se c'è un nesso, almeno io l'ho sperimentato sulla mia pelle, c'è un nesso tra l'aver scoperto di essere intollerante al glutine e quindi aver intrapreso una dieta ferrea free gluten, con il fatto che avevo frequentemente dei mal di testa. Da quando appunto ho intrapreso questa dieta, ora questi mal di testa sono molto molto diradati nel tempo, e anche di intensità sono molto molto inferiori rispetto a prima avevo dei mal di testa che mi costringevano a chiudermi in stanze al buio con il silenzio estremo. Ecco, mentre adesso, eliminando il glutine dalla dieta, dopo naturalmente una diagnosi, certo, Stefano sta bene. Dottor Avoledo e il professor Barbanti. Beh, dottor Avoledo. È un'evidenza tutt'altro che infrequente quella di una sospensione, una riduzione di alcuni cibi, e il beneficiare di, per il mal di testa, ma per altre patologie in cui la componente infiammatoria è importante. Il cibo ormai è noto, le evidenze scientifiche sono incontestabili, che può sostenere infiammazione, si parla proprio di infiammazione da cibo, che può, come dire, focalizzarsi in alcuni distretti del corpo, compreso la testa. Quindi è tutt'altro che infrequente una risposta come quella del nostro ascoltatore Stefano, se non ricordo male. Non fatevi però, come dire, non togliete il, non è detto che sia il glutine, possono essere alcune sostanze contenute nel latte, in altri cibi, quindi va sicuramente fatta, come giustamente dicevi, un approfondimento. Professor Barbanti, d'accordo? Perché ho subito da leggerle subito un messaggio a proposito del glutine come responsabile della cefalea, e potrebbero essere anche altri alimenti. Beh, d'accordissimo, perché non dimentichiamoci che quello che crea il glutine nel nostro intestino è... Ci siamo persi il professor Barbanti. Allora, tempo di... siamo perfetti. Comunque è caduto nel momento giusto, perché dovevo dare la linea ai mercati. Quindi mi permette di essere puntualissimo. Mercati, meteo, vi ricordo 800 24 00 24. Testa e gambe. Aspetto le vostre domande e anche i vostri suggerimenti. Un ascoltatore mi scrive che mangia un cucchiaino di semi di sesamo tutte le mattine. Ho iniziato perché aveva mal di testa intensi e pulsanti una volta ogni 10 giorni circa, e sono passati. Ha smesso per 2 mesi e sono tornati. Che sia il sesamo la ricetta magnifica per far scomparire il mal di testa. Essere e benessere. Siamo qui che ci cervegliamo, professor Barbanti, per questo sms di un ascoltatore che ci suggerisce i semi di sesamo per far passare il mal di testa. Almeno è un'ascoltatrice, si chiama Rachele, e mangiando questi cucchiaini di semi di sesamo tutte le mattine ha avuto la meglio su mal di testa intensi e pulsanti che le arrivavano una volta ogni 10 giorni. E un sms che ha molto colpito, incuriosito il dottor Avoledo. Avranno qualche proprietà particolare? Beh, diamo due possibili spiegazioni. La prima mi risulta che il sesamo sia ricchissimo di omega 3. E gli omega 3 sono quei grassi utili per il cervello, per le sue capacità di costruire la cellula nervosa, di fare una manutenzione ordinaria, e questa è essenziale nel soggetto con mal di testa. Poi dovrebbe contenere, uso condizionale, il complesso B e in particolare la B2, la riboflavina, è un metodo per la prevenzione dell'emicrania. Certo, ci vogliono dosi molto elevate, ma l'altra spiegazione è questa, forse era che ele ha dato anche un ritmo alla sua giornata differente. Spesso si cominciano alcune supplementi, alcune diete dicendo cambio un po' giornata, cambio un po' vita, e questo è un altro straordinario metodo per alleggerire la testa che pesa o appesantire la testa leggera. Giovanni, dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Eccola. Premetto velocemente che nel 97 ho fatto la visita neurologica perché adesso privo di emicrania e via dicendo. Mi hanno riscontrato un'emicrania di tipo tensivo, sì. No? Mi hanno dato le pastiglie apposta da prendere, va bene? Però ultimamente, negli ultimi anni, quando questi attacchi, adesso ce n'è uno, da stamattina un'emicrania incredibile, mi cedono proprio le ginocchia. Sento proprio che faccio fatica a tenere le gambe dritte. Niente, volevo sapere se c'era qualche... Grazie Giovanni, auguri per il suo mal di testa, magari tra gli spunti e i consigli che abbiamo dato oggi trova quello che fa per lei. Intanto professor Barbanti, mal di testa e gambe che fanno Giacomo. Visto Giovanni da Torino è subito andato alla seconda parte della nostra discussione. Il motivo è abbastanza semplice. Il ministro dell'interno del nostro cervello, che è il sistema vegetativo, durante l'emicrania è particolarmente arrabbiato e comunica visceralmente con organi come lo stomaco, ma spesso anche con le gambe. A Giovanni direi ovviamente di dover prendere farmaci specifici, che sono ormai alla portata di tutti, e se gli attacchi fossero molto numerosi anche farmaci preventivi. Però direi, per non travisare il senso anche di questa puntata, che è di consigli pratici, ricordiamoci che quei tipi di mal di testa, le emicranie, nascono per un abbraccio magico o mortale, come lo si voglia vedere, ma in senso figurato ovviamente, tra una predisposizione biologica e uno stile di vita in cui c'entra la maniera in cui mangi, i pasti che salti ancora prima dei pasti smisurati che fai, dell'alcol che bevi e del sonno di cui ti privi. E quindi in questo senso ascoltare un po' il ritmo del proprio corpo potrebbe rappresentare intanto telefonicamente un consiglio apparentemente banale, ma che può dare grossi risultati. Ma le gambe, a me piacciono di più. È strano pensare come la stessa parola, leggerezza, cambi di significato in relazione al contesto in cui viene inserita. Se diciamo ho la testa leggera, ne stiamo parlando, la testa tra le nuvole, molto spesso, ad eccezione di quando siamo innamorati, indichiamo una condizione di malessere, di disagio. Se invece a essere leggere sono le gambe, qui si vola, stiamo benone, oppure i piedi che sono talmente leggeri, vogliono essere talmente leggeri che mettono le ali. Invece purtroppo è molto facile che le gambe siano pesanti, gonfie, e che i piedi in qualche modo si adeguino. In linea con noi abbiamo il dottor Guido Arpaia, direttore dell'unità operativa di angiologia all'ospedale di Vimercate di Milano. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Io sto bene. Dottore, ci guardi le gambe, facciamo un rapido check delle nostre gambe, le sentiamo pesanti, dolenti, gonfie, ma a volte ci sembra sia solo un'impressione, quindi ci aiuti un po' a diventare esperti, ci insegni ad allenare l'occhio e se non basta l'occhio a usare anche la mano. Assolutamente, ma è dire che si potrebbe cominciare dal basso, dalle caviglie, perché le caviglie in effetti nelle patologie venose ci danno tantissime informazioni sia a guardarle che a toccarle. La prima cosa è ad esempio guardare se alla sera tendono a gonfiarsi, il che non è a volte solo una sensazione, ma addirittura se proviamo a comprimere con un dito la pelle intorno alle caviglie appena sopra al piede, rimane un'impronta, e questo è proprio un segno di gonfiore che è inequivocabile. E poi ancora possono comparire nel tempo, nei casi più avanzati, vene molto evidenti intorno ai malleoli o addirittura nei casi più gravi per certi versi, macchie appena sopra alla caviglia, di solito nella parte interna della gamba, macchie brunastre che sono queste quando ci sono segno di malattia venosa avanzata. Mentre se ci fermiamo in zona caviglia, diamo anche tempo ai nostri ascoltatori, quelli che non sono in macchina e stanno guidando, di tirare giù il calzino, quindi a caviglia nuda. Notiamo che ci sono delle venuzze, il colore fa la differenza e anche la posizione dentro, all'interno della caviglia o all'esterno, cioè interno e esterno gamba? Direi che da un lato la posizione è importante, perché di solito i problemi venosi si esprimono maggiormente all'interno della gamba, intorno al malleolo, piuttosto che verso l'esterno, ovviamente mai esclusivamente, ma nella maggior parte dei casi. Ci possono essere queste piccole vene dilatate, così come quelli che vengono chiamati i capillari, che altro non sono che ancora vene, però di diametro inferiore al millimetro a volte, che possono essere rossi, blu, a seconda delle dimensioni in qualche maniera. Dottor Arpaia, saliamo, veniamo al polpaccio. A volte è segnato, o meglio attraversato, da nervature. In alcuni casi sono appena accennate, in altri invece in rilievo. Ma quelle che sono evidenziate, appunto, come lei dice, nervature, che possono essere delle piccole varici, sono cosiddette varici reticolari, se hanno un diametro inferiore ai 3 mm, di solito hanno più una valenza estetica che non patologica. Più importante sono varici più grosse, dai 3 mm in più, magari anche rilevate, che a seconda della posizione possono derivare da un sistema venoso piuttosto che l'altro. Se posteriori al polpaccio, possono derivare dalla piccola safena che è dietro alla nostra gamba. Se invece mediali, ancora mediali, come si diceva prima, possono derivare dalla grande safena, ed è spesso proprio alla gamba che si fanno più evidenti le varici di pertinenza di questo vaso, che corre tutta la nostra arto inferiore nella parte mediale. Mentre alla coscia ci interessa poco, o dobbiamo guardare anche lei? Ma la coscia, di solito si salva, vero? Spesso si salva da problemi venosi enormi se si fa eccetto delle teleangiectasie, di queste varicette blu o rosse che spesso si mettono intorno alla radice della coscia, che hanno anche queste più una valenza estetica che altro. Raramente le grosse malattie, le importanti malattie venose si manifestano alla coscia, molto più facilmente alla gamba. Quindi occhio alla caviglia, occhio al polpaccio. Ma prima di salutarci, dottor Arpaia, un'indicazione, un consiglio per una buona manutenzione? Ma guardi, in primavera noi di solito paghiamo lo scotto di quello che non abbiamo fatto d'inverno, e quindi non abbiamo camminato, e noi sappiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la prevenzione delle malattie vascolari ci consiglia di camminare tra 150 e 300 minuti alla settimana, di buon passo se è possibile. Non siamo magari stati attenti al sovrappeso, che anche questo può peggiorare molto le condizioni delle nostre gambe, soprattutto se noi siamo predisposti. Io dico sempre ai miei pazienti, alle mie pazienti, le gambe non servono per salire e scendere dalla macchina, ma servono per camminare, ed è la prima cosa che dobbiamo fare. Se no vi metto le calze elastiche. Vabbè, ma in certi casi, in questi casi e nei casi meno avanzati, in effetti, ora che fa caldo, una terapia farmacologica mirata, dei massaggi ben fatti, anche fatti da se stessi con una crema idratante. L'automassaggio. L'automassaggio è importantissimo, ora che si comincia ad avere anche del bel tempo, le cure termali sono fantastiche per le nostre gambe. Grazie dottor Arpaia per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e, come si dice, in gamba. Grazie anche a lei, arrivederci, saluti a tutti gli ascoltatori. Dottor Avoledo, prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, se io le dico gambe pesanti, lei che cosa le salta in mente? Tre rimedi fondamentali. Vai. Ippocastano, rusco o pungitopo, quella che si mette a Natale come decorazione, e vite rossa. Sono tre piante fondamentali per il benessere delle gambe, perché sono flebotoniche, cioè migliorano il tono delle vene, antinfiammatorie, antiedemigene, cioè sgonfiano le gambe. Come si prendono? Doppia versione. Dai. Sia come capsule, quindi per un uso interno sistemico molto interessante, ma si trovano molto frequentemente in tantissime preparazioni, gel, creme che si vendono in reposteria, in farmacia, quindi un utilizzo sinergico per bocca e uso topico, risultati molto interessanti, soprattutto nell'uso prolungato. Sulle gambe bisogna ragionare in questo periodo per 2, 3, 4 mesi di trattamenti prolungati. Essere e benessere. Test the spalla, baby. One, two, three. Test the spalla, baby. One, two, three. Professor Barbanti, col punto attacco sono entrata perché è arrivato il momento delle gambe. Lei, come neurologo, le gambe le guarda? Le guardo tutte e due assieme, nei momenti in cui cammino i soggetti o quando stanno in piedi. Questo perché la natura è la scatola nera, per molti versi, di quello che bolle in pentola o che frigge nel nostro cervello. Pensiamo una cosa molto banale, il poliziotto che ci ferma quando non c'era il test del palloncino ti faceva camminare e sapeva già un po' quello che ti era capitato nei bagordi serali. Mm-hmm. Ma, per esempio, vedendo una persona anziana che cammina strisciando i piedi, noi sappiamo, per esempio, cosa può essere successo nel suo cervello. Senza essere drammatici, però, pensiamo come l'andatura sia diversa al di là della patologia di tipo organico, anche solo nel stato d'animo, nell'umore, come le gambe possano essere tremanti nei soggetti ansiosi e i passi possano essere non convinti nei soggetti, diciamo così, nei soggetti con depressione. Il cervello impiega moltissimo a muovere le gambe hanno dei muscoli di un peso e di una massa enorme, nella gamba c'è il muscolo sartorio, che è il muscolo più lungo del corpo, e il cervello arriva nei ballerini a farle muovere in maniera mirabolante. Ebbene, questo è il motivo per il quale dalle gambe e dall'andatura possiamo sapere quasi tutto del nostro cervello. 800 24 00 24, se volete raccontarci dettagli sull'andatura della persona che vi sta più a cuore, perché solitamente guardiamo come camminano le persone che abbiamo vicine e non ci rendiamo conto di come camminiamo noi. Dottor Avoledo, il professor Barbanti ha sottolineato la relazione che esiste tra gambe e cervello. C'è un'erba che accontenta tutte e due, con un duplice effetto. È l'erba perfetta per questa trasmissione che unisce gambe e testa. L'abbiamo fatta quasi apposta. Fatta apposta su quest'erba. È la centella asiatica, anche nota col vecchio nome di idrocotile asiatica. È un'erba molto nota nella tradizione ayurvedica, ma adesso anche da noi, un po' perché rientra nelle preparazioni erboristiche per la salute delle gambe, flebotonica, antiedemigena anche lei, ma è un tonico cerebrale. Questo lo sa bene l'ayurveda da 5.000 anni e le ultime evidenze scientifiche hanno scoperto che migliora con test specifici attenzione, memoria e concentrazione. Quindi centella in capsule o anche per le gambe per l'uso locale in crema in gel, e prendiamo i classici due piccioni con l'altrettanto proverbiale fava. Giorgio, buongiorno da Roma, benvenuto. Buongiorno, io volevo chiedere gli effetti benefici della cannella, della polvere di cannella, perché mi è stato detto che appunto migliora la circolazione ma anche la vivacità mentale e poi è buona e poi è buonissima. La cannella è una delle spezie più studiate negli ultimi anni, le spezie sono tutte meravigliose, la cannella ha proprietà, perché hanno tutte proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, ricchissime di principi attivi, la cannella migliora, abbassa la pressione, la glicemia, è utile in tantissime circostanze, gliene suggerisco altre al nostro ascoltatore come la curcuma e lo zenzero antinfiammatorio, che va bene anche per il mal di testa. La zenzero grattugiato, zenzero fresco, grattugiato. Patate e zenzero è buonissimo. Invece un messaggio da Facebook: al supermercato dimentico almeno 2 o 3 volte il carrello, lo abbandono per seguire la lista dei prodotti da acquistare e mi dimentico dove l'ho lasciato. Mi serve il magnesio, professor Barbanti? Serve un po' di magnesio e serve anche leggere la scritta disco rigido pieno, evidentemente sta pensando a troppe cose, e quindi non dimentichiamoci mai che a fianco dell'integratore bisognerebbe pensare a inserire pause nella nostra giornata. Il mondo va avanti anche senza il nostro eroico sforzo. Noi dobbiamo vivere di queste banalità e ricordarci che inserire pause di alcuni minuti nella giornata consente al computer di resettarsi e, pur se pieno, di andare avanti, altrimenti rischiamo di perdere il carrello della spesa. Giustissimo. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi. La saluto, mi prenderò subito una pausa. E quando uno dice te l'ha consigliato il medico, sì, me l'ha detto il professor Barbanti, stacco. Grazie al dottor Avoledo. Grazie a voi. A Gianmarco Ferronato in regia, alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Io vi aspetto su Facebook, sul Daily Lab, Essere Benessere @radio24.it, e vi aspetto come sempre domani. Buona giornata. essere e benessere.